Radio 24. Libera la voglia di fare. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Buona domenica a tutti. Buona domenica. Allora, Angelino caro, io come stai? Partiamo a bomba, sto benissimo. Partiamo a bomba, che oggi è veramente... Allora, oggi solleveremo il caso del canile di Mendicina. Quindi state con noi, sentiremo il comandante dei vigili urbani. Più di 900 cani tenuti in un canile lager. Per me era più lager di 900 cani. Perché sapete, ho visto che, le foto, ecco, vabbè. In Italia la situazione è un po' strana. Perché purtroppo, il comune deve dare dei soldi per ognuno dei cani che sono tenuti in un canile. E purtroppo alcuni canili sono collusi, insomma, approfittano di questa cosa, non segnalano neanche i cani che sono morti. Non è il caso del canile di oggi, perché non lo sappiamo la gente ancora, però che non... si è aperta un'indagine, noi vogliamo... La gente di questi comuni non sa che da un sacco di soldi che vanno poi a questi canili dove vengono tenuti in condizioni... veramente assurde, pare, questi cani. Pare da dei calcoli siano circa 2 milioni di euro l'anno solo per questo canile. E ovviamente ci sono degli interessi economici particolari. Bisogna andare a fondo e capire come mai nessuno poteva entrare in questo canile, okay, per esempio, ad adottare cani. Detto ciò, però, io vorrei sfruttare Angelo Vaira. Sfruttami. Ti sentiamo. Sfrutto. Allora, voglio parlare di... Adesso io elenco 10 punti di cui tu hai ampiamente parlato e spiegato. E inizieremo ogni domenica, partiremo dallo sviluppare un punto per volta. Un punto per volta, fatto con i tempi di Focus, esatto, con gli articoli lì, che esatto. Bello. Ogni allora, puntata, i 10 punti sono: 1. Abbandona velocemente l'idea di essere un capo. 2. Lasciali abitare casa tua, non solo il giardino. Stiamo parlando ovviamente di relazione col cane. 3. Approfitta di ogni occasione per renderlo partecipe della tua vita. 4. Mettiti nei suoi panni e guarda le cose dal suo punto di vista. 5. Ricorda che soffre e gioisce come te. 6. Coltiva ogni giorno il vostro rapporto. 7. Fagli scoprire il mondo e conoscere altri cani. 8. Non punirlo. 9. Gioca, esplora e cresci insieme a lui. 10. Non addestrarlo, educalo. Questi sono, potrebbero essere i 10 comandamenti della relazione perfetta col proprio cane. Sì, 10 chiavi principali per educare bene il cane. Partiamo dal primo. Abbandona velocemente l'idea di essere un capo. Ok, qualche volta ne abbiamo anche parlato. Sì. Allora, perché è importante, soprattutto questo è un elenco che io ho fatto quando ho scritto Dritto al cuore del tuo cane, no, per Feltrinelli. Sì. Allora, perché sono partito da questo punto? Perché proprio in quel periodo si parlava, c'era un altro libro che si chiamava, mi sembra, un capo in famiglia, una cosa del genere, il capo branco, la magia del capo branco, c'era tutta sta roba del capo branco, c'era quella trasmissione, no, di Cesar Millan che si diceva molto che bisognava essere il capo branco. Allora, e la gente diceva: ah, caspita, che ideona. In realtà noi in cinofilia questa cosa qua la sentiamo da sempre, praticamente, cioè, da sempre ti fanno una testa così dicendo che tu devi essere dominante, che ti devi imporre sul cane, che quello ti deve rispettare. Allora, no, sappiamo soprattutto negli ultimi anni sono state fatte ricerche sul lupo artico, sono state fatte ricerche sui cani selvatici o semiselvatici, insomma, da tutto questo noi sappiamo oggi con certezza che il cane è organizzato soprattutto in un gruppo sociale che somiglia ad una famiglia piuttosto che organizzare. Ora, la gerarchia c'è uno status sociale, eccetera, ma non bisogna assolutamente, perché questo crea dei problemi molto grossi, incentrare la nostra relazione col cane su questa cosa. Non ti devi sforzare di essere un capo. Certo. Perché la maggior parte, quando tu andavi una volta nei campi di addestramento, la prima cosa che ti dicevano è che tu devi essere un capo. Ecco, questo è sbagliato. La relazione ha mille sfumature. La relazione è bella perché tu ci giochi, perché ci si capisce. Bisognerebbe porre l'accento sulla comunicazione, sullo scambio, sulla scoperta, lo scambio, il rendere il cane addirittura lui il nostro maestro, perché in alcuni frangenti è lui che deve farci da guida. E noi accettando questa cosa evolviamo come persone e diventiamo dei proprietari di cani migliori, sempre se vogliamo tenere questa parola proprietari, sì, che è bruttissima, che non ci piace. Quindi dobbiamo eliminare questo, perché quando noi abbiamo in testa invece l'idea di essere un capo branco, purtroppo ci comportiamo di conseguenza in modo controproducente. Vi ricordo anche che dopo le trasmissioni di Cesar Millan, dove appunto sosteneva che bisognava essere capo branco, in America sono aumentate enormemente le aggressioni dei cani verso i propri padroni. Sì, quindi pare in tutti i paesi in cui sia stato proiettato. Fra l'altro, se voi prendete e estrapolate quello che ha detto Angela adesso, parlando della relazione col proprio cane, in realtà questo discorso vale nella vita tutti i giorni nel rapporto con tuo figlio, col tuo compagno, con tua moglie, con tuo fratello, con i tuoi amici. Quindi è proprio una filosofia di vita diversa da quella di dover essere dove ci deve essere il capo e il subordinato. Il cane ti deve accreditare, cioè lui che ti elegge, no, come qualcuno che ha un bello status, che qualcuno che ho voglia di ascoltare. Diciamo che una delle definizioni più belle di leadership che ho letto è creare un mondo al quale il cane voglia appartenere, al quale gli altri vogliono appartenere. Io l'ho trasformata al quale il cane voglia appartenere. Questo è il nostro compito, è rendere bella la vita, aumentare la qualità della vita del nostro cane, e non lo fai se tu incentri tutto sulla questione del capobranco. Io voglio ricordare anche che Angelo, dopo Diritto al cuore del tuo cane, ha scritto, che è uscito di recente, anche un libro sul gioco, cosa che non era mai stata fatta, un libro proprio. Era stata fatta, solo che io sentivo l'esigenza di farlo a modo mio, dovevo dire delle cose che normalmente non leggevo sugli altri libri, e quindi no, è giusto che dica che non esistono altri libri sul gioco, perché se no sembra esistono, veramente... Si chiama Un cuore felice. Allora, e voglio dire, prendetelo, perché vi assicuro che scoprirete veramente che cosa vuol dire giocare. Io sono una che gioca da quando è nata, questo devo ringraziare mio padre che ci ha allevato da grande giocherellone, perché il gioco non è una cosa da prendere, è una cosa da prendere seriamente, giocando la vita, perché ti aiuta in tantissime dinamiche. E Angelo l'ha tradotto anche nel rapporto col proprio cane, ne è venuto fuori una cosa veramente emozionante. Ora facciamo un break e continuiamo subito. Oscar, mi aiuti? Eccomi! No, stai attento, prendila di lì! Ma cosa? È scivolosa! Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive e schiene dritte. Attenti a noi due, ogni giorno dalle 8:20 su Radio 24. Con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura, semmai ne fa. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Bene, abbiamo una notizia abbastanza impegnativa che ci è stata segnalata da un nostro ascoltatore, vero Angelo? Sì, esattamente. Apriamo un caso, perché effettivamente vale la pena di parlarne, perché solleva delle riflessioni importanti e vogliamo anche capire a che punto si è. Allora, si tratta del canile Lager di Mendicino. La mail del nostro ascoltatore... In provincia di Cosenza, la mail del nostro ascoltatore dice: questo posto spaventoso si trova in Calabria. Paolo Bernini ha fatto un sopralluogo e alcune piccole associazioni hanno sporto denuncia, ma nulla si muove. È stata creata una pagina Facebook per adozioni, ma il gestore impedisce ai volontari di fotografare i cani per gli appelli e anche di entrare nella struttura. È ostacolato in tutti i modi. Più di una volta è stato necessario l'intervento dei carabinieri. Quasi tutti i box non hanno alcun riparo, come si vede dalle foto. È tutto aperto, vietato portare cuccio, coperte, zero cure sanitarie, zero adozioni. La presenza di Bernini e le denunce hanno permesso qualche piccolo progresso. Alcuni volontari sono riusciti ad adottare alcuni cani per stallarli a proprie spese in pensioni più visibili. Quasi tutti i cani sono anziani, entrati da cuccioli e mai più usciti. Preghiamo tutti di aiutarci in tutti i modi per far conoscere questo lager, sperando di riuscire a salvare il più possibile la struttura. E via dicendo. Allora, questa segnalazione ci è arrivata qui a Radio 24 e si sta discutendo e cercando di risolvere questa situazione da novembre del 2016. Adesso noi abbiamo in linea il deputato del Movimento 5 Stelle Paolo Bernini. Pronto? Pronto, buongiorno a tutti. Buongiorno Paolo. Buongiorno Paolo, abbiamo detto giusto? Sì, avete detto tutto giusto, esatto. Possiamo darci del tu? Sì, possiamo. Ecco, allora volevo capire, tu sei riuscito a fare un blitz a sorpresa in questa struttura, giusto? Sì, io ho visto un video su internet dei volontari che erano davanti a canile e non riuscivano a entrare. Allora hanno chiesto a me, perché io uso il mio ruolo istituzionale per affrontare questo tipo di situazioni dove ci sono questi canili o privati o comunali gestiti da privati che impediscono ai volontari di accedere all'interno senza nessun motivo, perché i canili sono strutture in cui la permanenza dei cani deve essere temporanea. Esatto. E sapere che le persone non possono entrare dentro per agevolare le adozioni vuol dire che qualcosa sotto c'è. Certo. Quindi non ha senso. Assolutamente. E quando tu sei andato lì, che cosa hai trovato? Quando sono andato lì, a parte che i canili devono essere, le indicazioni per i canili, ci deve essere una segnalazione con i cartelli stradali, ci deve essere gli orari di apertura al pubblico, non c'era nulla di tutto ciò. quando sono andato lì mi sono trovato davanti a un edificio, cioè un edificio, una struttura su un costone della montagna che sembrava più un allevamento di galline da batteria che un canile. Mamma mia. Ma anche un carcere, perché io ho girato qualche settimana fa un tuo post, Paolo, in cui si faceva vedere che sembrava un carcere penitenziario. Strano, insomma. Sì, sembra tipo un mezzo bunker. Sì, proprio io l'ho chiamato canile carcere perché lì i cani stanno dentro una gabbia, poi non hanno la possibilità di andare, di sgambare, di mettere le loro zampe sull'erba, sul terreno. Loro ecco, vivono tutta la vita semplicemente in una cella così. Sì. E nessuno può andare lì, adentro, non può entrare, non può vedere come stanno sti cani, il canile non è segnalato. Purtroppo più che altro lì ci sono anche problemi da parte dell'ASL, del fatto che i cani non stanno tutti bene. Cioè? E quindi un canile dovrebbe essere, quando si accalappia un cane prima passa per il canile sanitario, certo, dove il cane viene curato, dove sta in quarantena 60 giorni, poi viene portato al canile rifugio e da lì è pronto per l'adozione. Sì. Quindi il canile rifugio dovrebbe essere un cane sano, un cane che ha imparato a socializzare con le persone, certo, e con gli altri cani, mentre qui la socializzazione non c'è. Molti cani avevano la rogna, in più alcuni erano proprio grassi. Mm-hmm. Cioè ci sono questi cani ciccioni con delle zampette piccoline che questo è un presunto maltrattamento, perché vuol dire che il cane mangia, poi non si può muovere, quindi lievita, certo, e diventa un pallone. Mamma mia. Senti, ma cioè quello che voglio capire io, che cosa dice in realtà, tu ci hai già spiegato che ci sono certe regole che bisogna rispettare, cosa che questo canile già non rispetta, ma siccome adesso poi ascolteremo anche altre persone, probabilmente il comandante della polizia municipale, vogliamo chiamare, che si è reso disponibile a parlare con noi, l'avvocato difensore di questa Croce del Sud, mi sembra di questo canile, i titolari di questa Cino Sport, che dicono che va tutto bene. La cosa che a me colpisce è che per esempio la ASL dice no, ma va tutto bene, è tutto a norma, ma sulla base di che cosa? Allora qua c'è un altro problema. Il problema è quando chiedo queste ispezioni, i carabinieri ovviamente chiamano l'ASL, perché l'ASL sarebbero i diretti interessati, i veterinari che, certo, trattano il benessere degli animali. Solo che il problema è che quelli che controllano sono quelli che dovrebbero controllare, cioè il controllore che controlla il controllato, perché loro dovrebbero valutare il lavoro che ha fatto l'ASL sul canile. Scusa, cioè, non ho capito, chi è che dovrebbe valutare il lavoro fatto che l'ASL ha fatto sul canile? La stessa ASL? Sì, certo. Vabbè, ma è... cioè, queste qui sono quelle cose fantastiche che capitano in Italia, no? Quindi molte volte sono gli stessi che devono valutare il loro lavoro, quindi non diranno mai, c'è una palese violazione, certo, di regole. Perché ad esempio io ho trovato, abbiamo trovato un cane, c'è anche la foto sul mio profilo Facebook, dove c'è questo cane col muso completamente pieno di ferite ed era insieme ad altri cani. Certo. Non si capiva se gli altri cani l'avevano morsicato, se era fatto del male da solo filando il muso in mezzo alla rete, però se non fosse stato per noi che eravamo lì, il cane rimaneva all'interno della, sì, gabbia, e per tutti cani, sarebbe, cioè, stato in piena salute anche lui. Senti, cosa si può fare oggettivamente, cioè anche per velocizzare, perché qui allora tutto ciò esiste da tanti anni, no? Perché oltretutto questi signori di questo Cino Sport si vantano dicendo che hanno 30 anni d'attività, che loro amano gli animali, che li curano molto bene. Poi sai, le chiacchiere stanno a zero, perché se uno vede delle fotografie e vede queste fotografie che sono cioè non si commentano da sole, tu hai voglia di dire guarda stanno benissimo. Allora la domanda è, per velocizzare e salvare questi animali, intanto quanti cani ci sono dentro lì? Quasi 900. Figurati. No ragazzi, ma come si fa? Cioè cosa bisogna aspettare? Cosa deve succedere perché una cosa di questo tipo si finisca immediatamente e si trovi una soluzione al più presto possibile? No, tra l'altro voglio dire anche una cosa. Allora io non so questo canile, insomma, ci diranno i giudici, la procura sta facendo le indagini e vi dicendo come andrà a finire, per carità. Però voglio sollevare un problema che c'è in Italia, e questo problema è questo: normalmente i comuni pagano una quota giornaliera per ognuno dei cani che sono presenti in canile. Allora, che cosa succede in alcuni canili? Succede che il gestore, più cani ha dentro, più lui ci guadagna. Perché se io ho 200 cani e prendo un euro e mezzo, 2 euro al giorno per ogni cane, guadagno X. Se ne ho invece di 100, 900, 1000, ovviamente guadagno 10 volte tanto. Ora, di quei guadagni, purtroppo, come è successo in passato, che cosa succede? Che i gestori danno una parte ai cani, si occupano dei cani, eccetera, ma l'altra in qualche modo la utilizzano per altri fini. Sappiamo che alcuni canili sono collusi con la mafia, che ci sono falsi bandi, insomma, sono successe delle cose tremende in Italia. Allora, quando uno vede, manca la segnalazione del canile, quando tu in canile non ci puoi andare, ti viene il sospetto. Ecco perché è giusto che si aprano le indagini. Se poi viene a scoprire anche che di dentro ci sono dei cani che vengono dichiarati in salute quando in salute non ci sono, allora è giusto che si apra un'indagine per capire effettivamente che cosa stanno combinando. No, dovrebbe essere così. Solo il fatto che siamo sempre in Italia, il ministro della salute è abbastanza immobile, e le procure ovviamente trattano anche i magistrati sono sommersi da fascicoli, molti sono sotto organico, molte procure, e quindi una denuncia su maltrattamento animali viene presa un po' così. Bisognerebbe cambiare o trovare a sistemare una legge che dia la possibilità di velocizzare quando ci sono immagini palesi che questi non sono canili ma sono dei lager a cielo aperto, immediatamente chiuderli, esatto, e fare sequestro. Esatto. Dovremmo poter entrare e avere il diritto di fare le foto e pubblicarle, perché questo no, ovviamente... Ma soprattutto ci dovrebbe essere una legge che ti dà la possibilità, invece di fare tanti giri burocratici che nel frattempo passano mesi e poi uno si mischia le carte, se la racconta, si fanno con cose anche verso gli umani, figurati con i cani, bisognerebbe fare così. Senti Paolo, tienici informati se... No, io posso fare un'altra domanda, sì. Abbiamo ancora 2 minuti, vorrei fare qualche altra domanda a Paolo, perché noi sappiamo, perché ecco, questa cosa che dice lui, magari vengono prese un po' più sotto gamba queste cose, io ho già tante richieste, figurati, adesso mi devo occupare anche del maltrattamento degli animali, cioè molti italiani la pensano nello stesso modo, ma sono soltanto animali, però non colgono l'interdipendenza delle cose. Come sappiamo, a volte passiamo quella frase di Gandhi che il progresso morale di una nazione si può misurare da come tratta gli animali. Ebbene, di questo che noi stiamo parlando, del progresso nostro morale. Nel momento in cui uno comincia a fare differenze, non si rende più di come sono interdipendenti le cose, perché compassione, moralità, eccetera, si estendono a tutte le forme di vita. Allora, io quello che volevo chiedere a Paolo è che cos'è che ti ha portato a fare questa scelta, perché mi sembra che tu all'interno del Movimento 5 Stelle porti avanti le battaglie animaliste. Sì, perché io sono vegano da 6 anni, e sono antispecista e credo che anche gli animali abbiano diritti e che devono essere garantiti in una società che dice di essere civile. E in più, ma non è solo il problema anche degli animali, è il problema anche dello sperpero dei soldi pubblici, perché se i cittadini pagano le tasse per mantenere dei cani in buono stato di salute all'interno di strutture pubbliche o anche private, dove vanno a finire milioni di euro di soldi pubblici, il cittadino dovrebbe dire mi stai truffando qua. Fra l'altro, ma tu sai quanto questo canile percepisce annualmente? È venuto fuori? Adesso approfondiamo noi. Sì, ma lui dice, il gestore mi ha detto anche che non viene pagato dai comuni. Io ho detto ok, non ti pagano i comuni, se mi passi le carte cerco di aiutarti e far in modo tale che questi comuni paghino quello che ti devono pagare per i cani. Io ho dato il mio aiuto, ho fatto un po' di telefonate e poi questi dati non me li ha dati, non mi ha detto quali sono i comuni che non pagano, quindi... Ho capito. Va bene, noi ci teniamo aggiornati. Grazie, su questo Paolo. Punto vogliamo seguire. Grazie Paolo Bernini, deputato Movimento 5 Stelle. A presto. Grazie, ciao, grazie. Noi continuiamo con l'argomento perché parleremo adesso con l'avvocato difensore. No, parliamo anche con i vigili urbani, vogliamo leggervi cosa dice l'avvocato. Comunque andiamo avanti, facciamo una piccola pausa. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, container, con Massimo De Donato. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Allora, un attimo fa, prima della pausa, stavamo parlando con il deputato del 5 Stelle Paolo Bernini di questo caso, di questo canile di Terre Donni che è a Mendicino in provincia di Cosenza, che è praticamente un canile lager, ci è stato segnalato da una nostra ascoltatrice. Pare sia un canile lager, la procura non si è ancora espressa, voglio ricordare, però insomma ce l'avete segnalato e noi abbiamo voluto approfondire un attimo. Allora, abbiamo parlato appunto con Paolo Bernini, che è riuscito a fare un blitz a sorpresa nella struttura, ha scattato delle foto, ha fatto anche dei video. Adesso invece abbiamo in linea col quale possiamo confrontarci il comandante della Polizia Municipale di Mendicino a Cosenza, che è il comandante Alessandro Greco. Comandante? Sì, buongiorno. Eccoci, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, noi volevamo capire un po' come stanno le cose in questo... Cioè, qual è la sua opinione? Che forse lei è più super partes, no? E quindi che cosa ha visto, cosa... Sì, esatto, io posso soltanto dire, preliminarmente bisogna precisare che il canile non è un canile comunale, bensì è un canile privato, okay. Gestione privata. Sì. Okay. Precisato questo, io posso dire che ho partecipato in data 18/11/2016 unitamente al maresciallo della locale stazione dei Carabinieri, al sopralluogo effettuato al suddetto canile. Sì. Rifugio, uh-huh. e sopralluogo effettuato dall'ASPI di Cosenza, da veterinaria appartenente all'area C. Uh-huh. Dalla relazione poi stilata dal dirigente risulta che i cani, nella stragrande maggioranza dei casi, così dice la relazione, godono di buona salute, sono uh-huh. alimentati a volte eccessivamente e abbeverati regolarmente, uh-huh. e che in nessun caso sono stati evidenziati segni di maltrattamento. Questo è sottolineato nella relazione dell'ASP. Unico rilievo, che era già preventivamente stato fatto in precedente sopralluogo, era il non rispetto del rapporto capi metri quadrati previsto dal DPGR numero 32 del 2015, uh-huh. e ponendo come termine ultimo per tale adeguamento il 30 di aprile 2017, come dispone lo stesso decreto della Regione Calabria. Sì, fino al 34, esatto. E poi in effetti dalla relazione risulta che su 903 cani esaminati, diciamo, uh-huh. Bisognosi di cure, ne sono stati rilevati, individuati solo 4. Quindi, ripeto, io... No, va bene, magari, non so, magari sì. È la verità e non voglio assolutamente metterla in dubbio. No, io quello che risulta a me, sì. No, no, a noi preoccupano altre cose, non soltanto la salute dei cani, oltretutto poi l'obesità purtroppo è un problema e va curato, quindi in realtà da un certo punto sì. di vista anche quella è salute. Però a noi preoccupa una cosa, per esempio, sì. no? Cioè noi oggi i canili devono essere segnalati e si deve agevolare il fatto che vengano visitati anche dalle persone esterne per agevolare le adozioni. Esatto. Qui invece sembra che ci siano molti cani che sono entrati cuccioli dentro, non siano mai usciti, e 900 cani sono veramente tanti. Questa è una cosa che a noi e soprattutto non c'è la possibilità, non c'è la possibilità di entrare a visitarli, a vedere, cioè sembra che sia difficile per le persone. Mi risulta non è così, poi non lo so, io francamente su questo non mi posso pronunciare. Senta, io, ma quando lei dice che lei è stato a vederlo il canile? Sì, certo, le ho detto il 18. Ok, sì. Quando lei dice stanno bene, dice secondo me tutto in regola, a parte quelle due cose che ci ha segnalato, lei cosa, sì. cosa intende che vede i cani allora, che stanno bene? Cioè hanno un riparo dal sole quando fa caldo piuttosto che una cuccia calda? Hanno la possibilità di fare passeggiate e non stare sul cemento? Perché noi abbiamo ricevuto queste foto e sono gabbie di cemento, abbiamo sì, visto esatto. che ci sono ciò, abbiamo visto che le ciotole dove mangiano sono incementate in cemento per terra, questo vuol dire che non vengono pulite. Cioè il cane che sta sempre sul cemento e non ha mai tutti i giorni la possibilità di fare delle passeggiate, quello è un maltrattamento. Ci sono volontari che hanno detto che volevano andarli a fare volontari e non gli è stato permesso. Allora la mia domanda vabbè, è... questo non mi risulta, sì. Beh, ma sulla base di che cosa uno può dire questi cani stanno bene? Se no, la struttura stessa è fatta così? Allora, io le ripeto, io le dico ciò che è risultato a me dall'atto della relazione, del sopralluogo fatto dall'ASP e da quello che risulta a me dagli atti della relazione. Per altre questioni non lo so, io per quanto riguarda la polizia, allora per quanto mi riguarda personalmente, io ho visto alcune delle, ma non tutte, le gabbie erano abbastanza pulite. Va bene, per noi era importante avere anche l'opinione del comandante dei Vigili Urbani, che si sa, insomma, è una persona che nel paese conta, conosce i cittadini. Insomma, e può essere un buon mediatore. Intanto la ringraziamo di essere stata a disposizione nostra. Grazie a lei. Grazie comandante. Buona giornata. Allora, adesso noi dovremmo avere in linea, che ha ascoltato tutta la telefonata, invece l'avvocato dell'associazione che asporto denuncia. Esatto, l'avvocato difensore Giacomo Anelli. Giacomo Anelli, buongiorno. Buongiorno. Eccoci, buongiorno, mi scusi, avvocato. Hai riuscito a sentire la chiacchiera che abbiamo fatto? Sì, ho sentito le numerose inesattezze del... Ecco, appunto, ci può dire quali sono? Ma ne ho segnato qui qualcuno a volo. Allora, intanto dice, ma la gran parte dei cani stava bene. Ma non deve essere la gran parte, cioè in salute. Certo. Cioè, nel senso che non avevano malattie. Non deve essere la gran parte. Dovrebbe essere tutto. Deve essere la totalità, perché a 2 chilometri di proprietà della stessa persona aveva un canile sanitario, che ovviamente serve appunto a ricoverare i cani che stavano male. Certo, in realtà noi abbiamo rinvenuto, ripeto, in condizione, perché il sopralluogo è stato fatto, il blitz, chiamiamolo così, così lo chiamano, è stato fatto dal deputato Bernini, sì, e dalle associazioni che abbiamo indicato negli esposti, il 17 di novembre alle 5 di sera, dove peraltro non essendoci nemmeno luce elettrica nel canile, era già abbastanza difficile capire. Abbiamo visto però numerosi cani che erano affetti da lebbra, da rogna. Questo era visibile, insomma. Allora, dico, quando si parla di maltrattamento, il capitano dice sì, stavano bene. No, non stavano bene. Intanto già loro stesso dicono che ce n'erano in un certo numero che non stavano bene, quindi lì non dovevano stare, dovevano stare nel canile sanitario. Uno. Due, non erano maltrattati, ma se intendiamo per maltrattamento, non so, percosse, certo, o quanto altro al cane, è evidente che siamo su una falsa strada. Il maltrattamento lì consisteva nella inadeguatezza della struttura, inadeguatezza sotto ogni profilo imposto dalla legge. Certo. Loro allora dicono, ma noi abbiamo tempo fino a 2017. Dopo 30 anni che li trattano così. Scusi, avvocato, un'altra curiosità. Sì. Lei ha idea di quanto percepiscono a livello di soldi per tenere 900 e passa cani? Sì. Quanto? Allora, la normativa in materia prevede un pagamento che va dai 3 ai 5 euro giornalieri per cane. Caspita, è tanto. Quindi il totale su 900 e passa cani quant'è? Ma guardi, noi abbiamo fatto una stima di intorno a un paio di milioni all'anno, grosso modo. Capisci? Poi allora no, io... Vabbè, 900 cani costano. Sì, non è certo. Che... Però ma effettivamente... costano, ma se li tieni bene. Ecco, effettivamente uno dice, ma perché questi non vanno mai in adozione? Difficile? Perché pare che fosse difficile. È ovvio. Ma guardi, io... Allora, l'impressione che abbiamo ricavato da tutta questa vicenda, perché diciamo tutto nasce dalla impossibilità ad accedere al canile. Cioè questo signore, il proprietario del canile, ne abbiamo fatto anche un video che abbiamo mandato sui social, che di fatto si è opposto per 20 anni a fare introdurre persone, pubblico, volontari e quant'altro nel canile. Ma come si è opposto per 20 anni? Allora posso dire la mia impressione? Abbiamo parlato prima, avvocato, con Paolo Bernini, che ci ha detto una cosa agghiacciante, cioè che la ASL deve verificare che la ASL stessa vada a controllare che le procedure dei canili in genere, parliamo di questo, siano fatte per bene. Cioè è un cane che si morde la coda. Ovviamente l'ASL dice no, no, è tutto a posto. Il comandante dei vigili della polizia municipale dice no, no, a me sembravano tutto a posto. Ma sai che nessuno ha controllato, nessuno. Che cosa si può fare adesso oggettivamente? Che si è capito che ovviamente ci sono dei grossi problemi in questo canile, che si percepiscono tantissimi soldi per tenerli lì da cuccioli e farli morire lì, perché da parte mia, quando vedo delle immagini, le chiacchiere stanno a zero, stanno veramente a zero. Allora, io non so quanti anni è, quanti mesi è adesso, da novembre si è scoperchiata quest'altro caso drammatico di questo canile. Cosa si può fare, e nel più breve tempo possibile, oggettivamente, per risolvere questa situazione? Allora, il discorso è molto complesso, perché noi diciamo, iniziando a lavorare su questo canile, ci siamo resi conto poi anche degli ostacoli che le grandi associazioni, parlo di EMPA, parlo di OIPA, parlo di LAV, le grandi associazioni non hanno fatto nulla in questi anni, quindi sono corresponsabili allo stesso modo di come sono corresponsabili i settori pubblici, cioè i vigili, il comune, soprattutto l'ASP e quant'altro. Allora, l'impressione che io e altri, diciamo, abbiamo ricavato da tutta questa vicenda è che c'è un serio interesse, un interesse molto diffuso e molto ampio, a che le cose in questi anni siano andate in questo modo. Perché voglio dire, cioè, certo. Allora, allora la cosa è talmente evidente, ed è talmente evidente che questa situazione non è solo di Mendicino, ma è della gran parte dei canili del sud, dove guarda caso le ASP non fanno sterilizzazioni, che pure sono imposte dalla legge, ed è questo il motivo per il quale probabilmente su al nord i canili funzionano meglio, cioè funzionano meglio nel senso che non ci sono cani nei canili, ci sono pochissimi cani al nord. Infatti. Senta, allora, infatti qui la situazione è gestita, sembra tutti un po' meglio. Leggo però la mail che ci ha mandato l'avvocato della controparte, è doveroso da parte nostra, loro apprezzano il fatto che noi li abbiamo interpellati, e dicono: allo Stato ci pare doveroso evitare di apparire in pubblico prima che l'ufficio di procura si sia pronunciato sulla fondatezza delle accuse mosse nei nostri confronti per il reato di maltrattamento di animali. È necessario ricordare che la Cinosport, non come società ma quale impresa individuale familiare, vanta esperienza di almeno 30 anni nella gestione dei canili. Senza voler anticipare alcuna difesa, riteniamo di dover allegare la comunicazione dell'azienda sanitaria provinciale, che è quella di cui ci parlava poi tra l'altro anche il comandante dei vigili urbani. Ma avvocato, cosa possiamo fare noi per velocizzare, far qualcosa per quei... Quanti anni è che sono rinchiusi questi cani in queste condizioni? Allora, ci sono cani che sono lì da 13 anni, 14 anni, ma in realtà non c'è nemmeno tutta la documentazione relativa a questi cani, cioè noi non sappiamo nemmeno se quei cani che sono lì sono effettivamente i cani che sono stati ingressati a suo tempo. Senta, ma esiste una legge che un canile come questo può essere chiuso cioè in breve tempo? Allora, glielo dico da avvocato a questo punto, cioè non ho mai visto settore meglio disciplinato come quello dei canili, cioè un settore dove di fatto è tutto perfettamente regolamentato, almeno qui in bisogna Calabria. Osservare. E quindi bisogna far osservare le norme, però è evidente che se l'ASP, che dovrebbe far osservare, non fa osservare. È evidente che se i comuni, che dovrebbero essere interessati a quell'osservanza, perché i comuni sono quelli che poi pagano per i cani, ma non risulta mai, per esempio, c'è il comune di Rende, qui vicino, che paga, si dice che abbia un certo numero di cani nei vari canili, paga una cifra intorno ai 600-700 mila euro all'anno. Allora, se tu spendi questa somma per i cittadini, vuoi andare a controllare quantomeno che quella somma sia ben spesa? Certo. Allora, quindi, come vede, il discorso finisce per allargarsi. Senta, avvocato, guardi, allora noi, io mi tengo il suo numero, la ricontatteremo. Ovviamente c'è da dire che noi siamo a disposizione, la controparte, se volesse dire qualcosa, che ci scrivesse a Chiedimi se sono felice @24.it per ascoltare anche loro. Ringrazio l'avvocato Anelli e grazie mille, e ci... non lo so, auguriamo è un po' scioccata, Rosita. Sì, sono scioccata, perché mi auguro di poter andate parlare di andate in questo cosa. Canile, se è vero che potete entrare, andate lì e fate foto e fatevi sentire. Grazie avvocato, grazie a tutti, ci vediamo tra poco. Deborah, ci sei? Sì, ma ho un dolorino un po' qua dietro al collo. Perfetto, cadi a fagiolo tempismo, magnifico perché a febbraio Cuore Denari è il mese delle articolazioni. Il professor Carlo Selmi, che è responsabile di reumatologia e immunologia clinica a Humanitas, ma anche docente all'Università degli Studi di Milano, ti rimetterà sicuramente a posto e soprattutto ci farà capire se ti lamenti di gamba buona. Mi sento già meglio, però mi è rimasto un po' di bruciorino di stomaco. Ma Deborah, dai, ce l'hai tutte tu. Dai, ascolta Cuore Denari, ogni mese un consiglio per investire in salute. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Allora, amore mio, leggendo le varie mail che ci mandano i nostri ascoltatori, ne ho trovata una curiosa di una signora di una certa età anche, che ha paura di un grosso cagnone. Ah, certo, l'ho letta anch'io. Chi meglio di te può dare una risposta a questa signora? Come si chiama la signora? Non mi ricordo. Dunque, la signora si chiama Marcella. Ci scrive da Varese. Esatto. Lei ha un problema, praticamente è una signora ottantenne, no? Ecco. Ora, c'è il cane della consuocera di questa signora, che è un cane corso di grandi taglie. E quindi cane corso cos'è? Grande come un boxer più o meno? Più grande. Ah, ecco appunto. È più grande del boxer. Il cane corso molti lo confondono col mastino napoletano. Devo dire che sono abbastanza diversi. Okay. Il mastino napoletano è ancora più grosso, con tutta questa pelle pendente, eccetera. Il cane corso è più agile, no? Però è comunque un cagnone ben strutturato, no? Allora, succede che questa femmina di grossa taglia tenta di farmi festa, ma nel timore di cadute io l'ho sempre allontanata. Con decisione, infatti, non mi si avvicina più di tanto. È accaduto che sono dovuto andare a casa di mia figlia passando per il giardino dove il cane stava libero in un giorno in cui in casa non c'era nessuno. Mi ha piantato le zampe sullo sterno con un balzo improvviso, ecco. Mai fatto prima, e il mio genero dice che voleva farmi festa, ma io non ne sono convinta, anche perché mi abbaiava. Allora, il punto, qui sono diverse le cose da prendere in considerazione, no? Perché il fatto è che da allora lei purtroppo in famiglia ha sia la nuora, il suocero, tutti quanti che vivono con questo cane, hanno iniziato a non salutarla più, a non frequentarla più, a tenerla a distanza, poverina. Sì, dice i rapporti con la consuocera si sono raffreddati. Esatto. Lei da quel momento lì pretende di essere accompagnata, aggiunge anche per protesta. Allora, ci sono diversi elementi qua da prendere in considerazione. Uno è che oramai faccio questo lavoro da 20 anni e ho imparato una cosa. Moltissimo delle situazioni problematiche che noi viviamo con i cani dipende da come noi... Dalle persone. Dalle dinamiche, sì, certo. che avvengono. Quindi un consiglio che di solito io mi trovo a dare è per riappacificare i rapporti non dipende da quello che dici, ma da come lo dici. Cioè, è legittimo il fatto che una persona abbia paura. Certo. Però dipende, cioè tu protesti soltanto e probabilmente questa cosa qua innesca tutta una serie di... Allora, è normale però secondo me che una signora di 80 anni che magari se cade si fa pure male di fronte ad un cane corso che vuoi per le feste, vuoi non per le feste, comunque è saltato addosso. Esatto, anche se fosse per le feste, insomma, un cane così grande... Anche se non ho sentito la controparte, diciamo così, esatto. Però trovo giusto che questa signora venga accompagnata. Ora... Vorrei anche lanciare un messaggio a tutti quelli che ci stanno ascoltando: se avete paura dei cani o fobia dei cani, curatevi. Ecco. Cioè, sì, no, perché è normale, perché io non è che se io ho paura di un'auto, eccetera, non è che pretendo le auto non vadano in giro. Allora, certo, è giusto che ognuno abbia la propria libertà, ce l'abbiano anche i cani, perché i cani, ricordiamo, la cittadinanza del cane, il suo habitat naturale è presso di noi, quindi deve avere cittadinanza. E quindi è normale questo. È ovvio che però per una signora di 80 anni, non le dico fatti Curati. Aiutare da un terapeuta, certo. con questa roba qua, anche perché non mi sembra fobica nei confronti, ma mi sembra una patologia. Soprattutto questa situazione qui mi sembra una situazione dove basterebbe mediare. No? Basterebbe mediare fra le varie persone, fra la consuocera e chi vive con questo cane, e lei non è una cosa irrisolvibile. Queste sono, grazie a Dio, fra quelle cose che sono risolvibili facilmente con piccoli accorgimenti senza dover stravolgere la vita di nessuno. Un'altra cosa che io prenderei in considerazione è che effettivamente, anche se il cane di solito è sempre buono, se non ci sono i proprietari a casa, potrebbe effettivamente fare quello per cui un cane corso è nato, cioè fare la guardia. Certo. Il cane corso faceva un po' il bovaro, un po' il guardiano, capito? È era il cane da guardia delle masserie pugliesi, ecco perché lo conosco molto bene. Saluto anche Luigi Di Leo, che è stato il mio collega carissimo, carissimo amico di San Nicandro di Bari, è stato uno dei fautori del riconoscimento della razza, quindi una razza che conosco molto allora, bene. Effettivamente lei, quando è andata da sola, il cane potrebbe aver anche detto sì, ok, ti conosco, però chissà. Allora bene, signora Marcella di Varese, speriamo di essere stati esaustivi, si dice? Esaustivi, sì. Esaustivi con questa risposta. Se ci volete chiamare, anche la consuocera, se ci ascolta, ci vuole chiamare per dirci la sua, noi siamo a disposizione. Adesso però dobbiamo ascoltare. Dobbiamo mangiare. Piatti e ciotole. E dunque, Mara, come delizi il nostro palato oggi, nostro e quello dei nostri cani? Quello di tutti, piatti e ciotole, cani, gatti. Esatto, per i gatti, diciamo, per quei gatti che hanno voglia di condividere con noi il nostro cibo, perché non tutti sono così, propongo l'insalata di cavolo cappuccio. Buona. Allora, ci occorrono 3 arance, 1 o 2 mele, un mazzetto di coriandolo, mezzo cavolo cappuccio bianco, mezzo cavolo cappuccio rosso, semi misti, olive nere, quelle che piacciono tanto a noi, un pizzico di aceto, sale, sempre un pizzico. Allora, cosa dovete fare? Tagliare i cavoli cappucci con una mandolina, facendo un po' attenzione. Quindi, che cos'è la mandolina? La mandolina è un attrezzo un po' pericoloso in cucina, bisogna trattarlo con le dovute cautele. Ci permette di affettare finemente gli ortaggi rotondi, ma anche le carote, con un diametro rotondo comunque. E ci permette di fare delle fette sottili sottili. Ah sì? Sì, ma ti consiglio, Rosita. Da qui si evince che io non sto poi così tanto in cucina. Però è bello, già come si chiama, mandolina, e poi è un attrezzo molto utile, ve lo consiglio. Mandolina è bellissimo, poi il mandolino, già il mandolino è uno strumento fantastico, tondeggiante, quindi rassicurante. Va bene, allora si tagliano le verdure con la mandolina. Molto finemente, e metterli a marinare con l'olio, il pizzico di aceto, il pizzico di sale. A parte, tagliare a cubetti le mele, le arance e sminuzzare il coriandolo. Le mele con la buccia, senza buccia? Se sono biologiche possiamo mantenere la buccia, se non sono biologiche abbiamo la cortezza di sbucciare l'arancia. Invece lo sbucci, la buccia dell'arancia no? Lo sbucciamo, certo. Okay. Prepariamo, scoliamo dalla marinatura i cavoli cappucci e condiamo in una ciotola queste fettine di verdure tagliate finemente, le mele, le arance, il coriandolo e i semi misti. E infine spargiamo sopra, a nostro piacimento come quantità, le olive nere, da cui magari abbiamo tolto il nocciolo. Magari, Allora, se è destinato soltanto agli umani, possiamo permetterci di lasciare il nocciolo. Se invece vogliamo condividere con i nostri animali, come in questo caso, dobbiamo toglierlo, come facciamo con i nostri bambini piccoli. Quindi, per la ciotola dei nostri animali, possiamo mescolare come sempre a del riso, della quinoa soffiata e magari così spolverare con lievito alimentare o un trito di mandorle tostate. Per invece il nostro piatto umano lo possiamo servire come contorno di un hamburger, visto che tante volte vi do i consigli sui burger, precisamente senza ham, oppure con un altro secondo a vostro piacimento. È particolarissimo, a me piace moltissimo, è particolarissimo questo piatto. Tu hai provato a farlo mangiare ai tuoi cani, certo, gatti? Certo, perché Pepita è una grandissima mangiatrice di frutta. Pepita, fantastica. Pepita ama sia le mele che le arance. Io vi consiglio di provarla, perché i nostri animali, soprattutto i nostri animali, non hanno un problema a mescolare dolce e salato, come magari qualche commensale umano potrebbe avere. Non per mescolare dolce e salato, perché comunque c'è frutta. Vabbè, io per esempio ho il barboncino che il mandarino lo mangia, però l'altro cagnolino no. Potresti farla col mandarino. Ah, no. Poi pensavo marinarlo un po' nell'aceto. Ma un pizzichino, proprio giusto per ammollare la verdura. E l'aceto non è controindicato nei nostri animali, e quindi possiamo utilizzare. Però per esempio io ho un cane che l'aceto, l'insalata condita con olio, sale, aceto, io ce ne metto tanto di aceto, se la mangia, e l'altro invece no. Bisogna provare, come in tutte le i piatti da condividere con i nostri animali, dobbiamo fare delle prove e poi selezionare le ricette che piacciono a tutta la famiglia. Ed effettivamente il gatto, no, col cavolo cappuccio Allora, la mia gatta, se deve rubare questo piatto dalla ciotola di Pepita, lo mangia. Se io glielo faccio appositamente, quindi no, lo mangia, non lo mangia. Lo voglio rubare, allora in quel caso, vedi. No, ricordo il gatto di una mia amica che mangiava la rucola, andava a passo, cioè se sentiva odore di rucola, quello veniva da ovunque, doveva andare a prendere la rucola perché gli piaceva troppo. Ah sì, assolutamente. Beh, per noi è buonissimo, Mara, quindi lo proviamo, testiamo sicuramente, proviamo. Va bene. Senti, grazie, buona domenica anche a te. Buona domenica a tutti. Vogliamo ricordare dove possono trovare le tue ricette? Allora, se volete andate ad ascoltare il podcast di Chiedimi se sono felice. Sul sito di Radio 24. Sì, perché magari sai che uno non ha fatto in tempo a prendere appunti, sta cucinando eccetera, mi vado a riascoltare i podcast così. Altrimenti sul tuo blog, che è Vegan Chef, giusto? www.veganchef.it, oppure sul mio libro La ciotola veg, dove ci siete anche voi. Ah, vedi, certo, è vero che ci siamo anche noi. Sì, Guido Tomasi editore, La ciotola veg. Perfetto, grazie Mara, ci sentiamo domenica prossima. Grazie, buona domenica Maruzza. A voi. Buon appetito. E noi vi ricordo, Chiedimi se sono felice, @24.it, scriveteci e ci vediamo domenica prossima. Buona domenica. Buona domenica.